Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Questo è il penultimo venerdì di Salva Danaio in diretta, saremo ancora insieme per tutta la prossima settimana, poi anche noi ci prenderemo qualche giorno di riposo, ma ritorneremo in diretta a partire di nuovo dal 23 agosto, per cui solo 3 settimane separati. Qualcuno di voi probabilmente tirerà un sospiro di sollievo, qualcun altro sentirà un po' di più la nostra mancanza, speriamo comunque di accontentare tutti quanti. Allora, tema del venerdì, mercati, lo facciamo di frequente sul finire della settimana, mercati sui quali questa mattina domina un po' di incertezza, un po' di nervosismo. Di certo questo carattere interlocutorio, chiamiamolo così, le borse stanno viaggiando contrastate in questo momento, un paio positive, un paio negative, almeno le principali. Saranno così, dicevo, avranno questa tendenza interlocutoria almeno fino a tardo pomeriggio. Perché? Perché a Bruxelles, appuntamento alle 18, a mercati europei chiusi, è prevista la diffusione dei risultati degli stress test condotti sui bilanci delle 91 principali banche d'Europa. Come avete sentito, ne abbiamo parlato anche nel giornale radio. Questo è stato considerato il tema dominante per tutta la settimana, perché non è irrilevante lo stato di salute in cui le banche si trovano, dato che la crisi che stiamo ancora vivendo, di cui stiamo ancora sopportando tutte le conseguenze, iniziate nel 2007, è stata provocata proprio dal sistema finanziario. Allora, noi commenteremo questa situazione cercando di prevedere ragionevolmente quelli che potranno essere i risultati, ma commenteremo anche il comportamento dei mercati alla luce di queste notizie che continuano ad arrivare, e prenderemo questi spunti per orientarli utilmente verso i piccoli risparmiatori che magari cercano di capire come affrontare le informazioni che arrivano da qualche giorno a questa parte, che arriveranno anche nelle prossime ore. Siamo sicuri che non succederà stasera niente di dirompente, anche perché qualche anticipazione rispetto a questi risultati è già stata diffusa. Siamo però molto attenti alla turbolenza e alla volatilità che sono tornate a contraddistinguere le ultime giornate sui mercati. Allora, forse è il caso di dare qualche indicazione per mantenere la rotta del proprio risparmio, per mantenere sotto controllo l'impiego del proprio risparmio. Peraltro stamattina, non a caso, abbiamo scelto proprio due ospiti particolari, perché ho voluto chiamare qualcuno che non avesse nessun tipo di legame con nessuna istituzione bancaria e finanziaria nel nostro paese, quindi per evitare ogni possibile conflitto di interesse nel ragionamento sul tema di stamattina. Per cui io saluto e ringrazio di essere con noi, perché lo sono per la prima volta, Salva Danaio, Giovanni Tosi, amministratore delegato di Advin Partners SIM. Tosi, buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Questa è una SIM di consulenza indipendente, poi spieghiamo anche che cos'è una SIM di consulenza a Tosi e a tutti i nostri ascoltatori. E poi saluto e ringrazio anche di essere con noi la dottoressa Roberta Rossi, consulente finanziario indipendente, titolare del sito moneyexpert.it. Questo è uno studio, diciamo più globalmente, di consulenza in materia di investimenti. Dottoressa Rossi, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno ai radioascoltatori. E allora, come sempre, vi metterò anche alla prova dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24, nessuna prova naturalmente, solo un ragionamento complessivo su quello che accade da qualche tempo sui mercati, su quello che ragionevolmente potrebbe accadere, in modo tale da poter collocare utilmente il proprio risparmio. Il numero verde ve l'ho ricordato, vi do anche il numero per scriverci i vostri messaggi, che è il 349 238 6666. Allora, il tema della puntata sarà la borsa, sarà il mercato, e oggi cosa succede in attesa di questi benedetti, maledetti stress test? Succede che la borsa, ieri già piuttosto positiva, stamattina ci riflette un po' di più, stanno consolidando i guadagni di ieri Parigi e Francoforte, particolarmente tonica Francoforte, guadagna adesso lo 0,4%, ma in Germania è stato diffuso l'IFO tedesco, questo importante indicatore di fiducia che in luglio è risultato nettamente, forse inaspettatamente appunto, migliore delle attese, quindi questo rafforza gli acquisti sul mercato azionario tedesco. Parigi più 0,28, negativa Londra dello 0,3, negativa anche Piazza Affari dello 0,36%. Su Milano pesa particolarmente la performance, la prestazione di STM, ST Microelectronics, meno 3,48%, che ha divulgato i suoi risultati questa mattina, mercati ancora chiusi, ma i risultati sono buoni, almeno a giudicare da quello che dicono gli analisti, però sarebbe stata particolarmente deludente questa notizia relativa ad una joint venture con Ericsson, e quindi evidentemente è stata un'iniziativa che non è piaciuta al mercato. Anche Campari perde l'1,41%, Telecom perde un punto. Le banche, che ieri hanno guadagnato un un bel po', oggi perdono un punto circa, sono in particolar modo UbiBanca, la Popolare di Milano, il Banco Popolare e Unicredit che perde lo 0,7%. Positiva di 2 punti Luxottica, in attesa della trimestrale che sarà diffusa lunedì, Buzzi in rialzo di 1 punto, Italcementi più 0,7%, Autogrill più 0,59%, ha ricevuto un giudizio positivo dagli analisti di UBS, segnaliamo fra i titoli minori il balzo di Risanamento, adesso più 6%, ma il titolo è stato anche sospeso per eccesso di rialzo dopo le decisioni del Consiglio di Amministrazione della società di chiedere al Tribunale di Milano il riesame del sequestro preventivo dell'area di Santa Giulia. Lasciamo la borsa, almeno per quello che riguarda l'andamento di questo momento, ma torniamo sul mercato complessivamente, ecco le ultime notizie che hanno dominato la scena finanziaria degli ultimi giorni. Ancora poche ore e si alzerà il velo. Per gli stress test sulle banche europee, l'appuntamento è fissato infatti alle 18 di oggi, quando sul sito della CEBS, il Comitato di Supervisione sugli Istituti del Vecchio Continente, verranno resi noti gli esami sulla solidità patrimoniale, a cui il sistema bancario dell'Unione Europea è stato sottoposto. Si tratta in sostanza di un tagliando di controllo, volto a valutare le capacità di resistenza degli istituti di credito a improvvisi sviluppi negativi del contesto in cui operano, e anche dei dati sulle singole banche. In tutto, gli istituti che sono stati sottoposti al test sono 91, tra i quali figurano anche le banche italiane Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e UBI. E se le autorità di vigilanza di diversi paesi, Italia compresa, hanno già fornito rassicurazioni sul buon esito dei test fatti alle proprie banche, sarà comunque importante valutare la reazione del mercato finanziario. Un mercato che negli ultimi giorni è stato in parte rasserenato dalla raffica di trimestrali positive arrivate dagli Stati Uniti, ma che tuttora è ancora in cerca di una direzione precisa e di stabilità. E insomma, la tenuta del sistema finanziario è fondamentale. Peraltro, come avete sentito anche prima, Goldman Sachs ritiene che delle 91 banche europee sottoposte a questi test, 10 almeno potrebbero non superarlo, mentre il País stamattina, quindi stampa spagnola, dice che molti istituti di credito dei 24-25 monitorati, tra l'altro no, 27, perché la Spagna è quella che ha più banche sotto esame, ritiene appunto che molte banche spagnole non ne riusciranno a superare questo esame. Detto questo, parto nella mia conversazione con gli ospiti di questa mattina prendendo a spunto una riflessione di un ascoltatore che dice: questa storia dello stress test assomiglia molto al blocco dei computer quando si è entrati nel nuovo millennio, procurato allarme, soldi buttati. Non sarei così estremista, comunque è un esame che è importante che venga condotto per fare il punto sullo stato patrimoniale degli istituti di credito. Detto questo, l'importante che poi questi test vengano condotti all'insegna della massima trasparenza. Roberta Rossi, consulente finanziario indipendente, moneyexpert.it, arriveranno delle sorprese a suo giudizio questa sera? No, direi che già ci sono delle anticipazioni su quelle che sono le banche spagnole e tedesche che potrebbero non superare i test. Non credo che arriveranno altre sorprese, anche perché diciamo questi stress test vengono condotti come dei test di laboratorio con ipotesi che non prevedono poi uno scenario reale in cui le banche non si trovano a dover superare un test da sole, ma sono all'interno di un sistema comunque interdipendente i cui effetti molteplici sono poi molto più pesanti di quelli che compaiono all'interno di queste simulazioni virtuali. Quindi se diciamo si verificasse uno scenario diciamo di crisi, il sistema avrebbe conseguenze molto più negative di quelle che appaiono poi all'interno degli stress test. 5 le banche che sono state passate in rassegna: Unicredit, ovviamente le più grandi, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi, Banco Popolare e UbiBanca. Peraltro noi anche nei giorni scorsi ci eravamo occupati di questo argomento nell'altra nostra trasmissione che è Soldi e Dintorni, e io avevo dato un'informazione non corretta, perché in pratica come vengono condotti questi test? Vengono come dire, come effettuate delle simulazioni di uno scenario di mercato economico assolutamente inatteso e magari particolarmente negativo, e si cerca di capire se le banche potranno reggere a queste avverse condizioni economiche. Io pensavo che fossero state anche fatte delle simulazioni prendendo a spunto l'ipotesi di un default di uno Stato sovrano come per esempio la Grecia, e invece in realtà non è stata affatto considerata, Rossi, questa ipotesi. Addirittura, mi spiegava lei prima, lo dico anche ai nostri ascoltatori, è stato posto un divieto piuttosto esplicito intorno ad un'eventualità di questo tipo. Sì, di fatto poi il default di uno Stato membro è un'ipotesi molto remota, perché se diciamo il sistema in questo momento è molto debole a livello proprio bancario, è anche vero che l'interdipendenza ormai dell'economia è talmente forte, anche dei governi, per cui diciamo l'intervento statale impedisce di fatto il default di uno Stato membro dell'Unione. Comunque effettivamente è stato vietato di fare questo tipo di test, anche se secondo me il problema di un default di uno Stato sovrano è comunque un problema minore, cioè sono altri problemi all'interno dei bilanci delle banche. Per esempio? Per esempio un ammontare enorme di titoli che diciamo non sono stati valutati secondo principi contabili corretti, che sono i valori di mercato, ma che diciamo si è consentito ancora di valutare con criteri molto più discutibili, come quello del prezzo di carico. Tenga conto che in questo momento il grosso problema del sistema è un problema di liquidità, per cui in realtà se tutta questa massa di titoli dovesse essere messa sul mercato non ci sarebbe una controparte in acquisto. Non ci sarebbero degli acquirenti, quindi probabilmente forse questo è lo scenario peggiore che gli stress test hanno preso in considerazione, forse anche questo. Giovanni Tosi, le faccio spiegare dopo che cos'è una sim di consulenza, chiedo però anche a lei intanto come state giudicando questo clima di attesa rispetto ai risultati dei test sullo stato patrimoniale delle banche europee. Secondo lei è ragionevole fare una previsione su quante banche non passeranno questo test, e secondo lei che tipo di stato di salute verrà fuori rispetto invece alle banche italiane? Noi crediamo che in realtà il vero problema dello stress test debba essere considerato poi all'interno di quello che è il vero problema dell'Europa, che è il debito sovrano e il debito delle singole banche. Non crediamo effettivamente che ci possano essere dei grossi risultati diversi da quelli che sono poi le anticipazioni che sono state fatte. Fa sorridere un po' la stampa internazionale quando pone in luce il fatto che secondo la stampa internazionale questi stress test non siano fatti in modo uniforme, come invece sono stati fatti evoluti all'interno degli Stati Uniti d'America, cosa che secondo noi forse fa sorridere più che altro perché in realtà la stampa anglosassone guarda sempre con molta superficialità anche i test che facciamo noi in Europa, per cui credo che in realtà ci possa essere da questo punto di vista una volontà politica di procedere in modo uniforme per definire qual è il quadro finanziario sia del debito sovrano che dei debiti delle banche in Europa. Questa è un po' la nostra posizione. Quindi insomma quello che posso capire è che qualunque sia il risultato che verrà pubblicato questa sera, neutro, molto positivo o molto negativo, il tema dei prossimi giorni sarà sicuramente un ulteriore dibattito sulla metodologia utilizzata per fare queste analisi e se questa si possa considerare trasparente o affidabile. Detto questo, noi adesso abbiamo avuto un po' commentare questo clima di attesa, però come sapete Salvadanaio cerca di dare anche un'impronta utile ai nostri ascoltatori, e quello che vorrei fare a questo punto nella seconda parte della trasmissione è capire, alla luce dei possibili risultati di questi test, che tra l'altro saranno comunicati anche con una certa metodologia al mercato, anche la Banca d'Italia ha imposto determinati standard di diffusione dei risultati questa sera alle 5 banche italiane interessate, quello che vorrei fare è capire anche cosa pensano i nostri ospiti a questo punto di quelli che potranno essere i movimenti di mercato da qui alla fine dell'anno, se in questo momento ritengono utile cominciare a riorientarsi sul mercato azionario o se è ancora troppo presto e quando sarà il momento di tornare di nuovo a farlo. Dagli stress test sulle banche, i cui risultati verranno comunicati stasera a mercati chiusi alle 18 da Bruxelles, alle indicazioni per i piccoli risparmiatori per orientarsi in questo mare di notizie che continuano ad arrivare, a dominare anche la stampa finanziaria e orientare anche il risparmio dei piccoli che ci ascoltano, piccoli risparmiatori, da qui alla fine dell'anno, superata ancora questa volatilità che sta ritornando a contraddistinguere le giornate di borsa, come ci si potrà utilmente posizionare sul mercato azionario ed obbligazionario per navigare, si spera, in acque tranquille, anche se molti prevedono ancora giornate di volatilità come quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, per chiacchierare questa mattina con Roberta Rossi, moneyexpert.it, consulente finanziario indipendente, e Giovanni Tosi, amministratore delegato di Advin Partners SIM. Enrico da Parma è pronto da un po'. Enrico, buongiorno. Buongiorno a voi. Io dico questo, vi chiedo soprattutto se questi test sono un po' la scusa per verificare la salute delle banche italiane e anche europee, con uno scenario che molto probabilmente non si verificherà, a quanto ho sentito, cioè nessuno potrà fallire così. Allora mi chiedo se questi test sono effettivamente la scusa per speculare ancora una volta su questi titoli o per fare comunque speculazione in borsa. E invece quando si comincerà a guardare l'aspetto più economico invece della situazione, quindi andare a vedere i fondamentali delle banche, i dividendi che danno, che secondo me sono invece molto più positivi. Enrico, grazie, sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Intanto, allora, insomma, è tutta una scusa fare questo controllo dei bilanci delle banche, tanto per continuare ad alimentare un po' la speculazione intorno a questo settore. Roberta Rossi, è stata una scusa però per andare anche un po' a controllare sui bilanci, si sono ripuliti un po', Roberta Rossi lo diceva chiaramente prima, in realtà forse un'operazione di pulizia è stata fatta. Rossi, che ne pensa? Sì, assolutamente. No, direi che non è una mossa per alimentare la speculazione, sono dei test seri, però sono comunque dei test di laboratorio. È come, diciamo, uno che è bravissimo a sparare al poligono, poi si trova in una battaglia vera e bisogna vedere se nella battaglia vera sa fronteggiare gli avversari. Che bel esempio che ci ha fatto, molto calzante, Rossi. Il problema è che all'interno del sistema c'è un problema grosso di fiducia e le stesse banche tra loro non hanno una elevata fiducia reciproca, tanto è vero che i prestiti interbancari sono ridotti al lumicino e tantissime banche sono costrette a rifinanziarsi attraverso la BCE. Regge molto la fiducia dei consumatori, questo è il dato importante. Io parlo di fiducia in questo momento più che di dati di bilancio, perché i dati di bilancio in questo momento non sono secondo me neanche così significativi, proprio perché si è permesso alle banche di valutare degli asset in modo non stringente. Per quanto riguarda comunque, se vogliamo parlare di prospettive, è stata pubblicata proprio oggi una ricerca dell'ABI in cui si stima che nello scenario peggiore dal punto di vista economico gli utili bancari rischino una caduta quest'anno per le banche italiane del 60%, quindi voglio dire, non stiamo parlando di speculazione, di ipotesi teoriche, ma stiamo parlando di cose concrete che poi si riflettono sugli utili bancari, che comunque sovrastimano il dato reale, proprio perché alle banche, per non creare comunque panico, è stato consentito di non valutare tutti gli asset sulla base di reali valori di mercato. Giovanni Tosi, certo che è stato consentito di fare delle cose alle banche, diceva Roberta Rossi, forse perché non si voleva vedere più sul mercato l'effetto che poteva provocare un fallimento, anche se magari forse una lezione europea serviva anche, come quello che si è visto all'indomani del crack di Lehman Brothers. Non lo so, insomma, lei che cosa pensa della considerazione che ha fatto il nostro ascoltatore prima? Quando si ritornerà a fare una valutazione delle banche solo dal punto di vista dei fondamentali, dei dividendi che possono esprimere, queste riconoscere e distribuire agli azionisti? E tra l'altro gli utili delle banche è un tema che è stato molto analizzato negli ultimi mesi. Utili boom, addirittura per qualche banca, addirittura situazioni pre-crisi, ma non ci dimentichiamo che questi risultati sono stati permessi, sono stati raggiunti solo perché le banche hanno continuato a fare trading, quindi a fare compravendita sul mercato azionario, quindi molti risultati positivi sono stati determinati da questo. Sì, beh, io comunque trovo che questo stress test in realtà sia un evento estremamente positivo per la comunità finanziaria, perché lo scopo dello stress test è quello comunque di rendere più trasparente l'attività che viene fatta dalla banca e soprattutto il rapporto con la comunità finanziaria, perché io cito un esempio che avevo letto su un giornale: se effettivamente una società automobilistica versa in gravi condizioni deve comunicarlo in maniera molto precisa alla comunità finanziaria, che poi farà i conti con quello che è il mercato. Fino ad oggi questo non avveniva nel mondo delle banche, per cui il fatto che sia stato un test voluto, secondo me, è un elemento estremamente favorevole per chi come noi deve poi confrontarsi con i dati di bilancio, piuttosto che la stessa trasparenza dell'azienda, che bisogna valutare, bisogna guardarci dentro. Per cui sinceramente io credo che lo stress test sia un atto molto importante, che poi a livello europeo possa raggiungere gli effetti che sono stati raggiunti nell'America. Ecco, questo onestamente ho qualche dubbio, perché la realtà europea è una realtà estremamente, specie quella bancaria, estremamente eterogenea, fatta di ordinamenti politici diversi, mentre quella americana è sicuramente molto più uniforme. Poi gli americani sono tradizionalmente molto più pragmatici e meno sensibili alla politica degli europei. Poi quello che effettivamente recepirà il mercato da questo test, sinceramente credo che lo vedremo nei prossimi giorni, per cui se effettivamente saranno positivi e confermeranno la solidità patrimoniale delle banche, sarà il mercato a dircelo. Ecco, io mi fermerei più che altro a questa considerazione. Tosi, negli ultimi mesi noi abbiamo puntato il riflettore soprattutto sulla condizione, lo dicevamo in apertura, del debito degli stati sovrani. Le chiedo però se ai suoi clienti lei ha consigliato qualche acquisto di titolo del settore bancario, se invece ha scoraggiato completamente un investimento di questo tipo e se alla luce dei risultati degli stress test di questa sera è aperto all'idea di ritornare ad investire sul mercato azionario. Per adesso focalizziamoci solo sul settore bancario. Allora, per quanto riguarda i consigli dati ai clienti sugli investimenti in obbligazioni bancarie, non l'abbiamo fatto. Azioni? Assolutamente no. I nostri consigli si sono finalizzati principalmente nell'acquisto di titoli di Stato tedeschi, Banca Europea di Investimento e OATE francesi. Per cui quindi titoli decennali tedeschi, titoli decennali francesi, sì, e esatto. Obbligazioni degli enti sovranazionali. Sì. Esatto, questo perché siamo consapevoli del fatto ovviamente che andiamo a rinunciare ad una parte di rendimento che comunque è interessante, però in questa fase di mercato dall'inizio dell'anno abbiamo preferito la sicurezza al rendimento, ed è stato questo il messaggio che abbiamo voluto far passare ai nostri clienti. Ecco, in questo momento secondo noi gli scenari sono talmente vari e inaspettati che abbiamo preferito metterci in sicurezza piuttosto che privilegiare la... Certo, mi stupisce che questa sia una ricetta che possa andare bene per tutti, Tosi, non c'è stato nessun cliente che vi ha chiesto io comunque voglio rischiare un pochino di più. Ma no, onestamente no, in questa fase no, perché comunque il 2008 ce l'hanno ancora tutti ben presente, insomma, cosa è successo, per cui quando a volte addirittura siamo stati noi stessi a consigliare magari in qualche momento di mercato all'interno di quest'anno qualche investimento un po' più speculativo, ma comunque su una comparto azionario e comunque su aziende che abbiamo analizzato molto attentamente e di cui molto spesso conosciamo direttamente il management, per cui l'attività è un'attività di due diligence molto stretta, su cui insomma siamo abbastanza tranquilli. Poi mi spiega perché non ha citato nelle scelte di investimento sul mercato obbligazionario che avete suggerito ai vostri clienti, perché non ha citato il BTP italiano, ma questo lo affrontiamo dopo. Adesso sento la domanda di Francesco da Udine per poi tornare a Roberta Rossi. Francesco? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, la mia domanda era questa: i corsi azionari attualmente stanno già scontando a livello economico una situazione che attualmente esiste, E il fatto che negli ultimi sei mesi l'euro sia passato da 1,58 a 1,25 circa, e quindi leggo che ci saranno meno esportazioni nel secondo semestre dell'anno, influenzerà sicuramente i mercati. La mia domanda è: oggi i mercati stanno già scontando questa previsione oppure no? Credo che per le imprese europee questo calo dell'euro, Francesco, sia stato salutare, quindi di quali esportazioni sta parlando? Esportazioni europee verso i paesi non europei. Allora, aspetti un po' là, vediamo un po' come la vedono i nostri interlocutori di questa mattina. Io, tra l'altro, forse siamo pronti anche per i suggerimenti perché in viaggio, Roberto, così almeno diamo modo a Roberta Rossi di argomentare anche queste riflessioni del nostro ascoltatore. Allora, Roberta Rossi, moneyexpert.it, l'ascoltatore diceva, insomma, allora i mercati stanno già scontando forse anche le peggiori notizie che potrebbero arrivare nei prossimi mesi, come un rallentamento delle nostre esportazioni, che però, come dire, alla luce del nuovo rapporto di cambio fra euro-dollaro che si è ridimensionato nettamente a favore del dollaro, nel senso che questa è tornata a crescere sulla moneta unica europea, la svalutazione dell'euro ha riportato un po' di serenità fra le imprese che riescono a riposizionarsi un po' meglio sui mercati internazionali. C'è stata poi la decisione della Cina di sganciare lo yuan dal dollaro per ridare slancio alla competitività cinese, ma insomma qui dovremmo veramente riallargare i nostri confini enormemente. Cosa pensa di quello che ci ha detto poco fa il nostro ascoltatore? No, allora la debolezza dell'euro sta aiutando le esportazioni dei paesi europei, quindi è un fattore assolutamente positivo, tanto è vero che ci sono economisti di fama come Rubini che prevedono che ancora possa scendere un bel che po', che possa scendere ancora, che anzi la chiave di salvezza dell'Europa sia proprio un rapporto di cambio euro-dollaro 1-1, addirittura quindi, la parità. Questo elemento della debolezza dell'euro assolutamente è favorevole per le nostre imprese, infatti si parla di un boom delle esportazioni. Ecco, Francesco però lasciava capire che diciamo il mercato potrebbe aver già scontato ogni possibile cattiva notizia che potrebbe arrivare, di conseguenza siccome il mercato digerisce sempre con largo anticipo ogni notizia che poi movimenterà le sedute, potrebbe essere pronto a ripartire secondo lei? In questo momento no, sinceramente, noi non abbiamo indicazioni di in questo senso, siamo da maggio totalmente fuori dall'azionario, i miei clienti hanno a disposizione un indicatore che si chiama semaforo, che indica proprio il bello e il cattivo tempo in borsa, finora è ancora rosso, non faccio previsioni da qui alla fine dell'anno, cioè siamo pronti assolutamente a cambiare idee, a ritornare sul mercato, però in questo momento segnali di grande forza non ne vedo. Cosa dovrebbe accadere di così convincente da farvi cambiare idea? Allora, a livello sistemico, proprio per dare una nuova linfa a tutto il sistema, dovrebbero cambiare molte cose, cioè dovrebbe innanzitutto, visto che ci siamo focalizzati diciamo oggi sul sistema bancario, dovrebbe assolutamente diminuire la leva attualmente che hanno le banche rispetto ai depositi, per cui prestano i soldi dei depositanti 20, 30, 50, le banche straniere anche 70 volte, lei capisce la fragilità di un sistema costruito in questo modo. Naturalmente le banche dovrebbero in questo modo però produrre meno utili e quindi anche avere dei vincoli più stringenti nel denaro che mettono in circolo a disposizione di consumatori e imprese per investire, quindi bisogna comunque tornare, e tutti gli economisti secondo me parlano di questo, a prospettive di anche utili per tutti più basse, per avere un sistema più solido. Il sistema attualmente non è solido e quindi il problema è proprio a livello finanziario, cioè della fiducia che hanno anche proprio le istituzioni e gli operatori del settore finanziario nella forza stessa del sistema. Questa fiducia in questo momento non è molto forte. C'è una domanda per Giovanni Tosi nel senso che io decido di girarle e fare una riflessione su questo punto con Giovanni Tosi, di Paolo d'Alessandria, che saluto. Paolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, la ringrazio dell'opportunità. La mia non vuole essere una domanda polemica, ma solo di stimolo alla conversazione. Ci stimoli pure. Sentivo ci faccio uno stress test. Vediamo se reggiamo al suo stress test, Paolo. Sicuramente. Sentivo prima il consiglio di stare, di non investire in obbligazioni bancarie, ma solo in titoli di Stato tedeschi, in Bund o simili. Ecco, se io vado da un consulente, però per avere una consulenza del genere riesco a farmela da sola, perché il rendimento chiaramente è molto molto modesto. E secondo me, pur rispettando le varie propensioni al rischio, bisognerebbe mixare un po' le cose, nel senso che magari un 5%, un 10% di obbligazioni bancarie in un portafoglio si colgono anche delle opportunità in questo periodo. Perché se uno si ferma a prendere solo dei bund tedeschi decennali, il rendimento è vicino allo zero. E insomma, lei si fa la sim di consulenza in casa propria, Paolo, però mi pare veramente uno spunto interessante, io e la ringrazio. Scusi, aggiungo solo una cosa, che un'altra così. Se ci fosse una crisi sistemica in cui saltassero banche di primaria importanza, a quel punto lì non so neanche gli stati che fine fanno. Cioè, il debito sovrano pur solidissimo di Germania o Francia, dovessero saltare Dexia o qualche banca, non lo vedo più neanche così sicuro. A Paolo, grazie. Io credo che ci sia un accordo mondiale implicito di non far più accadere dei disastri di questo tipo. Poi, per carità, anche 3 anni fa chi mai si sarebbe immaginato che Lehman Brothers avesse fatto, facesse la fine che poi ha fatto. Però, detto questo, Tosi, allora, bravi a fare i consulenti e a consigliare la propria clientela di puntare su uno strumento che è assolutamente solido, quello del Bund. Dice, ma allora, insomma, tanto perché mi devo rivolgere al consulente per farmi dare una ricetta così banale? Perché forse, Paolo, magari per tutti non è poi così banale. Detto questo, la faccio replicare sicuramente all'ascoltatore, poi però mi deve spiegare anche perché i vostri clienti anche una minima quota di BTP italiano non la fate mettere in portafoglio. Allora, sinceramente la domanda era una domanda abbastanza di cui, che mi aspettavo, ecco. Non è neanche stato per noi molto facile in questo anno far passare questo messaggio ai nostri clienti, perché effettivamente compare Bund, BEI piuttosto che UTF francesi sono capaci tutti. In realtà la nostra è stata un'impostazione tattica che abbiamo dato ai portafogli fin dall'inizio dell'anno e che tuttora i nostri clienti stanno portando avanti con soddisfazione, perché comunque all'interno di quest'anno i portafogli non hanno avuto la volatilità che probabilmente avrebbero avuto, ad esempio, anche se avessero avuto semplicemente un titolo di Stato italiano. È vero che è molto banale come consiglio, ma non significa che proprio perché è banale in realtà sia un consiglio che non bisogna dare. Questo è un asset che noi abbiamo preso all'inizio dell'anno e che porteremo fino alla fine dell'anno. È chiaro che l'anno prossimo non è detto che manterremo ancora questo orientamento. La nostra posizione rimane di estrema difesa, e soprattutto perché ci mettiamo in una posizione attendista, perché noi vogliamo verificare semplicemente quali saranno gli orientamenti che il legislatore vorrà, specie europeo, neanche italiano. Noi sottolineiamo che vogliamo confrontarci con l'Europa, non con l'Italia. Il legislatore europeo vorrà dare all'unione monetaria, e soltanto in presenza di chiari segnali univoci diretti verso un'Unione Europea che sia effettivamente tale, allora il titolo di Stato italiano sarà, secondo me, appetibile almeno tanto quanto lo sarà quello tedesco. Ma in questo momento siamo perfettamente consapevoli che consigliare un titolo di Stato tedesco a un BEI è una banalità. Però quando l'abbiamo fatto all'inizio dell'anno, e lo stiamo portando avanti tuttora, nessuno ci ha mai detto se si trattava di fare così potevo farmelo da solo, perché comunque il risultato alla fine c'è stato. Il portafoglio va valutato ovviamente nel corso del tempo. No, poi devo riconoscerle, Tosi, adesso, siccome abbiamo fatto anche una grande discussione nei mesi passati sulla sottovalutazione o meno della crisi greca e sulla possibilità di prevedere o meno una crisi di quella portata, le conseguenze sul mercato azionario di quella crisi greca, che ancora è stata tutt'altro che risolta, si sono sentite a maggio, quando c'è stato il nuovo radicale ridimensionamento appunto dei corsi azionari. Se non ho capito male, questo me lo raccontava ieri, lo racconta ai nostri ascoltatori, voi avete consigliato ai vostri clienti di posizionarsi su Bund e titoli BEI già da febbraio, per cui poi che non si venga a dire che non si è in grado di prevedere certi scenari particolarmente problematici, e quindi si può, se si vuole, fare una buona attività di consulenza, proteggere anche la propria clientela. Allora, io ho un paio di minuti ancora, li volevo spendere, se riesco magari con entrambi, a dare un'ultima ricetta finale prima di salutarci. Vedremo come andranno i test, vedremo come supereremo questa estate, come si ripartirà in autunno. Roberta Rossi, se il mercato azionario dovesse riprendere di nuovo a ricominciare a guadagnare qualcosa dopo che si è bruciato negli ultimi mesi tutto quello che aveva guadagnato dai famosi minimi del marzo del 2008, come trovarsi preparati a cogliere le opportunità che ci saranno da qui a dicembre, o non so che raggio temporale vuole prendere a riferimento? Ma noi non prendiamo, cioè non è che facciamo l'asset allocation una volta all'anno, quindi cerchiamo di valutare le condizioni del mercato in questo momento, anche perché abbiamo nuovi clienti ogni giorno, e quindi ogni giorno dobbiamo valutare lo scenario di mercato. Diciamo che la nostra tipologia di clientela è molto esigente, quindi non credo che riusciremo a tenerli buoni semplicemente parcheggiandogli il capitale su investimenti super sicuri, che però hanno un rendimento reale praticamente nullo. Molto contenuto. Quindi naturalmente la nostra politica è di avere una strategia molto più flessibile, quindi di valutare dei singoli trend di investimento. Quest'anno comunque abbiamo investito molto sulle obbligazioni dei paesi emergenti, anche abbiamo cavalcato il tema dell'oro, proprio perché la tipologia di clientela che si rivolge a noi è una clientela che comunque, siccome oggi le banche online più competitive permettono di investire su tutti i temi del mondo, cerca comunque di ottenere un rendimento positivo dai propri investimenti. Grazie Roberta Rossi di moneyexpert.it. Giovanni Tosi, io ho 20 secondi di tempo per una sua piccola ricetta, glieli posso concedere? Ma noi semplicemente rimarremo in attesa fino a settembre. Da settembre in poi riteniamo che il mercato azionario farà un'ulteriore gamba in discesa, dopodiché con il nuovo anno secondo noi si potranno aprire di nuovo delle interessanti prospettive di investimento. Benissimo, allora ci risentiamo a settembre con entrambi. Grazie a Giovanni Tosi di Advin Partners SIM, Roberta Rossi moneyexpert.it, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Noi ritorniamo lunedì, vi lascio adesso al GR con Daniele Biacchessi, anzi mi riporto nell'altra postazione per riaggiornarvi di nuovo sui mercati. Buona giornata a tutti, anzi buon fine settimana da Deborah Rosciani.